Stamattina vi voglio condividere un pensiero semplice e piccolo, ma secondo me molto, molto, molto importante. Se noi guardiamo la nostra vita, chi di noi non è tribolato? Chi di noi non ha problemi, non ha fastidi? Tutti, tutti. E allora noi dobbiamo, possiamo, pregare per i fastidi degli altri, siccome è per i nostri, cosa facciamo? Abbiamo sentito anche il Vangelo che dice che anche noi saremo perseguitati perché siamo di Gesù, no? E ridete, ma anche la mia vita è una vita come la vostra. Anch'io ho mal di schiena, come tanta gente che ha un po' di... E al mattino se non faccio 20-30 minuti di ciclette, poi dopo durante il giorno io non mi muovo. Stamattina facevo un po' di, intanto che pedalavo, facevo un po' di meditazione e mi è capitato un pensiero della vita di Padre Pio. Padre Pio che combatteva contro il demonio. Un giorno, dice, gli si presenta un bel giovane e gli dice: io, chi sono lo sai, io non ti tormenterò più se tu farai quello che ti dico io, cioè se tu comincerai a pregare per la tua anima. Non devi pregare per gli altri, devi pregare per salvare la tua anima. Tu diresti: ma guarda che buon diavolo, tutt'altro, tutt'altro, ecco la tentazione. E Padre Pio lo smaschera e continua la sua vita a pregare per gli altri. Ecco, amici, il pensiero che vi lascio stamattina. Tutti noi avremmo bisogno di pregare per noi stessi, mancherebbe altro. Ma siamo chiamati ad amare il prossimo come noi stessi. E dunque dobbiamo pregare anche per la salvezza degli altri. La preghiera di intercessione è una grande preghiera, è una preghiera biblica, è una preghiera di Mosè, è la preghiera dei profeti, è la preghiera di Gesù che prega per noi. E per noi chi pregherà? La comunità. Se io prego per voi, voi pregate per me e ci guadagniamo, perché se io prego per me stesso, sono solamente uno che prega per sé. Ma se io oggi pregherò per tutte le persone che incontrerò e ho offerto a Gesù questa offerta della giornata, insieme a Padre Pio, voglio pregare per tutti coloro che incontrerò, e ne ho già incontrati, prima di stamattina col telefono, con di persona, così. Se io prego per loro, e lo sto dicendo anche a voi, e questa parola arriverà a centinaia di persone, e loro pregheranno per me, ci guadagniamo. Avanti.